quelli dalla mattina alla sera stanno al bar. Uia, un giorno gli ho detto il principale, ma te, tua madre è a posto del bimbero, ho preso da buccio una bottiglia di whisky, boh, nei minori. Tu mi bello la busta di Rodicoli. Vai tu, dici la tua. Cosa ti devo dire? Che io non ne vengo di chissà cosa. Sono mezzata da glicemiare il serio, mezzata. Fuori di testa tu. Non mi vuoi vedere fuori di testa? Poi io già adesso sono delicato, sono magrolino e non ce la faccio a leggerlo. Sì, ma non pensa che sei grosso che è rigidutto, eh. Io ne ho preso di gente la burazza in commentisco, poi è boh che feo, e uno l'abbiamo dovuto anche incanulare lì dove c'è San Giuseppe di fronte alla chiesa. L'abbiamo incanulata che era Grimbelli. Ce l'abbiamo fatta così a salvarla, a portarla all'ospedale. Stava per morire, se non l'incanulavi crepava. Il cuore si è fermato. E in arresto è entrato due volte, fortuna. Poi all'ospedale gli hanno fatto la lavanda gastrica, ragazzi, e ha riempito uno degli simbidoni i vanni, uia, e vai. Mamma mia, ieri non era più bito in vita sua. E poi ti lascia, il giorno dopo ti lascia tutto sballato, tutto la barra, no? Canto è feo, meglio guarda, sì che ti bevo un bicchiere di birra, così ti inciccia appena, ma almeno sei subito, dai, non ti imbriaga. Ma quella roba lì proprio ti butta in terra, non riesci a alzarti, questo che era proprio in terra, non si alzava, era tutto viola in faccia, è diventato viola di colpo, l'abbiamo massaggiato, poi abbiamo entrato la cannula e l'abbiamo dato l'ossigeno, anche se no si rimania. Che sembra si immagina. Quello che si immagina, mamma mia, è brutto, eh. E poi quando beve quella cosa lì, ti rimane il segno. Io l'avevo portato con la cannula inserita ancora, no? Dentro il pronto soccorso, di modo che se dovevano attaccare l'ossigeno ce l'aveva già inserita. E il dottore ha detto, chi l'ha messa questa cannula? L'avevo messa io. E ho detto, ma dalla giù vatto. E io gli ho detto, sono stato io perché, bravo, non gli hai fatto un graffio, bravissimo. Sicuro che la gaida che se la rovinava pensa la ora. Sì, perché poi la camera va messa dritta e poi girata dentro, capito? Vuole girare. Già lo so, mamma mia. E secondo come la giri puoi fare danno, puoi graffiare la gola, eccetera. E meno male già si è ripreso il pronto soccorso, l'hanno fatto Narcan. Io, mamma mia, io lo stesso, no, io quando frequentavo questa gente qui a Milano, cazzo beveva tutto roba super alcolici, alla fine basta, non ha più cazzo, da quando sono stato male durante la notte, cazzo non ha più gassato, il mondo non ha più gassato. E me ce lo credo, il fisico poi non ce la fa reggerlo e te lo butta fuori. E poi ero a quel tempo lì, cazzo ero ragno, cazzo pesavo, guarda, non ti dico male, pesavo 50-55 kg, pesavo. Va bene, Manuel, grazie per il consiglio, ciao Tore, anche a te, e buona continuazione, dai. Io vado che si sta aumentando il tempo, non vuole scendere. Sì, dai, già ci sentiamo, dai, in caso già, ci vediamo quando devo prendere dei mostriciattoli, ancora andiamo assieme. Poi ti do un'idea io di che cosa fare, se ti vuoi mettere i guppi te li faccio prendere incinta, tanto io ciò che riconosco quelli che sono incinta, ti fanno i fili lì, ma sei a posto, non devi più comprare pesce perché le fanno a nastro, poi i fili fanno altri fili, lui non ti ricavi più. Ma i guppi piccolini sono già. Allora, quelli che ho io li ho presi di quelli ibridi, praticamente sono incrociati due tipi di guppi e rimangono piccoli. Praticamente sono tutti colorati, eccetera. Poi ci sono anche granditi, ma non più di tanto, non so se guardali su internet, i guppi con la Y. fertilità. Guppi con la K. G-U, Guppi. Ah, ok. In casa è... vediamo un po', dai. Quelli lì ce li hanno, ne avevano loro. Sì, ce li hanno, ma sono un beccare in chi, mamma mia. Non si può comprare più nulla in chi. Io compravo la lettiera per i pappagalli, per mettere sotto, che la fanno dalla spiga del grano, te la volete mi pare. Adesso sono passati da 4 euro a 8 euro e passa. E 8 euro e 90, e la giorno ho detto, buon base, non è nebbio più, ci metto la carta e sotto nella carta ogni giorno e fate il gioco. Infatti, è fatto bene. No, troppo caro veramente, è caro veramente. Cazzo, io mi ricordo quando ho preso il bici, ti parlo di 10 anni fa, però. Cazzo, 1,50 euro. Quelli due si pagavano, li pagavo 80 centesimi o 50 centesimi l'uno, quelli russi. C'era anche un portatore, c'erano due, piccolo centro militare e poi un altro in piazza, però erano tutti e due chiuso, se no. E poi ce n'era anche un altro, via delle vigne, ha chiuso anche quello. E quindi gli aprono gli apportatori e si chiudono subito. Poi ce n'era uno, un bel grande, che trovavi di tutto, non sai dove. Dove c'è... Zitto un attimino. Dove c'è Tore, quello dove vede la roba la pesca, sotto. Sì, sì, ho capito. Ma ce n'è, a proposito di Portatore, c'è un negozio cinese che vende pesci e acquarie. A Portatore, c'è dove? Visto là dove c'è... Allora, passando da Ottava, appena fa l'inizio di Portatore, se c'è sulla sinistra un negozio di cinesi e vende sia pesci che acquari. No, ma non ti ho capito dove. Andando dove c'è quello, dove c'è appunto. No, allora, quando fai la strada per Ottava, fai la strada per Ottava che arrivi quasi all'inizio di Porto Torres, c'è un negozio subito dopo, c'è un rifornitore, dopo il rifornitore c'è un negozio di cinesi. Ah, lo sapevo, ce ne sono due rifornitori, confermi? C'è il primo uno dell'Ansi per l'altro dell'Agi. Bravo, quando scendi trovi subito quello sulla destra, poi più avanti trovi quello sulla sinistra e più avanti ancora c'è un negozio di cinesi, abbigliamento e vende anche cose di acquari, pesci e tutto quanto. Non lo sapevo, ci vado allora per vederlo. E i pesci dove sono cari? I pesci mi sembra, non ci ho fatto caso sinceramente, già, però ce li aveva i pesci, allora, appena entri all'entrata ce li ha. Bisogna andare a vedere, faccio un salto lì. Però non so se sono pesci tropicali, in Bari era il pesce normale, il pesce acqua dolce. Pesci cinesi. Grazie di bravo, dai, vi saluto. Ci aggiorniamo a noi, quando vuoi andare a certo grado, fa colpo il telefono e andiamo. Ok, yeah. Ciao, ce la riascoltiamo, ciao già, buona serata, vai tu. Ok, ciao già, ci risentiamo alle prossime. Ciao, ciao tu, ciao. Ciao a noi, ci sentiamo, e anche gli ascoltoni, salutoni, ciao, ciao. Ciao! Vabbè Emanuele, tu pure sei già arrivato. No, sono qua, adesso sto un po'. Mi mangio qualcosa che cazzo le carte sono di servizio. Oh, fino alle 6 di domani mattina. Sì, fino alle 6 e mezzo. Fino alle 6 e mezza. Chissà se fa freddo pure. Sta facendo freddo sì. Adesso sta facendo, cazzo c'erano 16 gradi ieri notte. Ma io ti verrà freddo davvero, mira. Certo. Ma toccato buon lo pigiama. 16 gradi c'erano fuori, via Troncolea. Quanto? 10 gradi? 16 gradi. 16, certo, vabbè dopo quanto è abbasciato. Sta facendo freddo, ha cambiato la temperatura. Ma anche adesso, se tu adesso esci si sente l'umidità, non fa più uscire maglietta a maniche corte. Oh, non fa più no, cazzo. Non fate più no. sto freschino. Ieri quando me ne sono andato alle 10:30 che è venuto a darmi il cambio turno il collega, che se c'era freschino alle 10:30 di notte. Il movimento è passato tutta un'ora la temperatura. Ma hanno detto, dice che torna a venire questa perturbazione di caldo africano, cazzo di aro grid a mari. Se torna, ma se no torna a Bisbaeta. Dai 37 ai 40, figurati, lo smalto che c'è, dai 16 gradi ai 40 gradi. Non è così che ne piglia Roma nel Maranno. Da un freddo a Rugaggio, e poi da Rugaggio torna un freddo. Non si capisce, non ci sono le stagioni come una volta, cazzo bello, si comprende più nulla. Se ci sono a bordo delle cose della Russia che ne arrivano tutto dai chivi, fai forza con le guerre che ci sono, si allontana di tutto, si allontana. E tutto e poi quando piove, se tu hai lottato, quando piove sembra... non è sabbia, perché tu hanno fatto vedere sopra la macchina, con la calamita, si attaccava la roba alla calamita. Quella è roba di cose magnetica, qualcosa dei cili, come cazzo stanno lì a sperimentare tutto. Io non, guarda, sinceramente non... è un casotto, è un casotto. Manuel! Dai, usci, sì, certo. Dai, vai forza le macchine, vai tutte le case, molte mari. La vernice, sta arrivando la rifa. Brecche! Oi, Marino! Buonasera, Fiorellino, c'è anche Attore, e buonasera a tutti gli ascoltatori da parte mia. Oh, ti volevo dire una cosa, come sta uscendo il basso? Compreso l'altro giorno, basso il segnale e anche basso il radio. Lasciamo stare la radio, ma il segnale è molto basso, 9, più forte Fiorellino, che tu, avanti il fiore. Ciao Marino, un attimo e arrivo subito. No, non ho capito, Manuel. Manuel. Ma ti arrivo. Quando cambia radio te lo dico. No, ma mi ricordo il segnale, confronto l'altro giorno, al solito sei più basso. Sei 9 qualcosa, invece Manuele è 9 più 5. E il 9-18 l'altro giorno, io ero una scuola, stavo facendo cosa, 9-18. E allora Manuele, tutto a posto, scoppiando stai a concorreare. Sì, lascia perdere, Mari, per carità, scoppiando. Ma è una cosa come se sarà un incubo, non c'è niente. Guarda che è pieno di macconi, saranno inquinati, però sono macconi. Sì, non avrà già fatto domani, di schifo, per carità. E come una volta stavo lavorando giù a Fiume Santo e c'era questo di sosso che stava da quelle macchine, pieno, tutto inquinato, e la mamma mia mi ha detto, ma... Ah, no, non puoi mangiare, perché io le mangio, le do il mio cognato, sono tutti, non penso. Signor Marì, io vi devo lasciare a tutti e due, ci risentiamo alla prossima, ci risentiamo, ok, ciao, salutami a Emanuele che si è allontanato un attimo, e ci risentiamo alle prossime, ok, ciao. Ciao, ho ben sentito, comunque non mi segnale, adesso so che qua non te lo stai utilizzando, sei più basso, sei da scherzo, ok, ciao, al prossimo, avanti Emanuele. No, si è allontanato, sì Emanuele. Ok, allora aspetto, dai, già rientra. Via, ciao. Ciao, ci sentiamo, ciao. Manuel. Mari. Ok, ti saluto attore, è dovuto andare via. Ebbene, hai visto il brevetto di Luca? Manuel, te l'ha mandato, sì? Sì, l'avevo già visto anche quando l'aveva fatto per lui. E già è comodo, perché cazzo non ti spacchi la schiena, stai via. Però rimane troppo basso ancora, Ma è basta, sul tetto è un casino, poi io sinceramente non mi vergogno a dire, ho anche paura a salire ormai sul tetto, c'è anche l'età, non è, sono molto grande comunque. sono un po' robusto e sul tetto almeno si sa che meglio è, anche per, sia per il terreno che per tutto, capito? No, ma già va bene, per me va bene, Emanuele, non mi interessa nulla, no, non mi interessa nulla. Adesso dal tetto sfoggerà intorno a 2 metri, penso, 2 metri e mezzo, ma guarda, c'è, se vuoi lo spiego ancora, lo spiego quello che col palo, lo spiego altre, mi svolto 2 metri dentro il palo, figurati, non mi interessa per il momento. Adesso settimana, se tutto va bene, piazziamo l'antenna, la stella, piazziamo la stella, quella che c'avevo, che mi ha sistemato, ho capito. Adesso sto usando la tua canna da pesca, messa in terra e appoggiata a terra. E c'è bene, guarda la lì, c'è bene. Io quando ce l'avevo su in giardino, cazzo, ci va bene. Non mi ricordo, se arrivavi 9.20 qua, qui tu da casa tua arrivavi 9.15, 9.20, proprio messa novella, forse se non c'era il segnale forte, forse c'erano le pesche attaccate e ti mandava più segnale, capito? Riusciva bene, guarda, da giù un paio di geretri, a voi la riuscia. Ma no, ti sto dicendo, è la tua, è fatto il bello che non c'è, stazionale zero, è proprio zero, proprio zero, non è che si muove lo strumento. Ah, va bene, andava bene, guarda, era fatta bene con l'antenna lì, un po' sorda, però già andava bene. Vabbè, novità, qualche novità, nulla, sempre sgobbando, stai, va bene, dai, Emanuele, per 2500 euro già va bene, a mese, dai. Magari, cazzo, avevo buttato la bimba, cazzo, 2500 euro. E comunque io una volta ti ho detto di fare quello che ti ho detto, da lui e non è fatto nulla, così è. Come da luglio? Qui fai quella domandina e puoi andare da dove tu hai dovuto andare. Giù basta, se domani più c'è amato, cosa hai fatto di domani ne devo fare, Gio Mari? Ma no, ma le cose dei baloncelli, no? E quale? Quelle del comune, se c'è. Ma tu hai dovuto andare, vabbè, già ti faccio una bassa, se ti mai ti dico dove andare. Scusa. Cazzo, stai entrando, cane pulci. Cane pulci sta entrando. Anche se è incozzati, sono gente incozzata, anche non lo so quanti funziona. Incozzati poi stanno in realtà, sono entrati tutti con l'assistenza sociale, hai capito? Se c'è un'assistenza sociale, brava, tu puoi andare, piangere, ti puoi fare un karaoke e ti vai in casa. Sì, via, a Ciappelli è uno schifo qua in Italia, è solo uno schifo qua e basta. Perché se entravi qua e gli avevi fatto 13, da qui se ne va in pensione, capito? Se non si comporta bene se ne va in pensione, il lavoro non è faticoso, sono quelle ore. Se lavori la domenica ci sono soldi in più, lavori festivi sono pagati il doppio, c'è riposi, permessi, buon riparto, qua c'è tutto. Ti va solo a fare due e fare il meno possibile. Beh, io sono senz'altro. Chi si sente anche la fare di va, anche uno si va a fare da a imbreccio, è normale che uno dopo dura poco. No, bisogna lavorare il meno possibile, perché se lavori qualcosa di più incominciano a fate a pizzi, capito? A fate a pizzi, ormai di lì è così. Beh, è normale, però non devi fare più di quel tanto, capito? Anche se finisci 2 anni prima, non devi continuare, ti vendi, vai ieri, ti imboschi, se non è finito il gioco. Ti imboschi, via. Io adesso ho fatto il coso di aggravamento per la schiena, adesso quando mi chiameranno, quando sarà, vediamo un po' se Dio me l'accetti, no, questo cazzo di cose. Cos'è fatto? L'aggravamento hai fatto, Manuel? L'aggravamento, sì, l'aggravamento. Adesso passerà qualche mese che mi chiamano e vediamo un po' a fare l'altra visita. Qualche mese? Ho fatto l'aggravamento io per una patologia e sono da marzo, e ancora non ho ricevuto nulla, da marzo, figurati me. Fate un conto, siamo già a metà settembre, siamo. No, questo per forza ti devono chiamare, c'è il tempo 90 giorni, per forza ti devono chiamare a fare la visita da Vizzidu. io la marzo ho mandato tutto e ancora non è arrivato nulla, non ho neanche mai due nuda, ho tutti i documenti pronti qua per colloquiare, devi portare le fotocopie, ancora 0.0. Vabbè, cambio di piatti lì già, ma non me la fotti tutta proprio. Ma se no devi camminare all'Ips e te lo dicono loro. Guarda, ha fatto un numero che mi hanno dato e mi risponde la sedazione e mi ha detto deve chiamare questo qua, chiama questo qua, e ha sempre salvato, sempre chiuso, sempre chiuso, va, poi via. Dove chiamare, ti ha detto a chi? All'Inps? Sì, all'Inps ti dicono loro quando ti chiamano da lì a fare la visita, e beh l'Inps lo sa, adesso vedo se capita di lì, ma sono vicino direttamente, guarda. Adesso sono messo incasinato, non posso fare nulla. Quando le piace, quando le chiamo, le chiamo e vediamo cosa succede. Io va bene, mosa, qualche cosa è. Io mi auguro che me la diano, me la accettino, perché io per il problema che ho non posso fare un cazzo. Questo lavoro qua lo stesso lo sto facendo, ma solamente quelli duro come a te, se io ho mali. Perché a stare in piedi, a stare seduto, sono sempre quei dolori. E vabbè, io già c'avevo una patologia, poi adesso c'ho la patologia dell'udito, ho già degli apparecchi, capito? Ho fatto mi ho compilato la rondina e poi il capo mi ha spedito tutto, capito? Adesso vediamo, camminiamoli. E anche io ho mandato tutto al CAF, ho fatto l'iscrizione anche delle categorie protette perché ero solo all'ufficio di collocamento assegnato. E al CAF glielo ho detto di iscrivermi anche lì e l'hanno fatto la segnalazione anche lì. Però ti ho detto, cercati un assistente sociale, se ti cerchi assistente sociale, ti dà una mano per arrivare là, hai capito? E c'era l'assistente sociale via 4 novembre, ma non servono un cazzo, non servono proprio a niente. Guarda che la metà sono stati così, l'ultimo scorso, la metà sono stati così, sono stati, tramite questa qua, la sede sociale, capito? Che le dà una mano, spinge, perché lo sai, ogni azienda ha bisogno di categorie protette, ogni azienda sono ogni quante persone, ogni quanto, 50, 60, ci vogliono due persone categorie protette, capito? Sono obbligati a prenderti. Adesso vediamo. Vediamo un po' cosa ne ci vuole. Se è casetta non andare dalle assistenze sociali dove c'avevo prima. Dai, ti raccomando, vai. Vai. E cerca di andare, cerca di piangere anche, con questa gente bisogna fare così, non hai capito? Se vai tranquillo, sereno, neanche per le palle te ne danno. Neanche per le palle. Non vengo di là. Ma là c'è lo Svizzero buono, c'hai io. Manuel, dimmi come ti sta arrivando, se la smite funziona bene. Lo sai che l'antenna è quella che è, un marito, comunque la radio è 5, la arrivi 9, l'antenna sul tetto dovresti arrivare a 9.20, 9.25. Vabbè dai, tu qui arrivi abbastanza bene. Io se te non l'avevo mai comprato l'antenna, già va bene quella che c'hai. Cazzo, arrivi qua, 9.5, figurati. Andava bene. Chi ti sente, ti sente, che non ti sente peggio per loro. Lui non spenderò più soldi per queste cose qua, ma lo sai, in Argentina mancanza, cartelli, baracchini, non basta, non ne spendo più, no, a parte che non ne vale più la pena. Anche se aveva avuto il posto per mettere l'antenna non ne avrei messo. Già va bene, intanto per quelle persone ci sono, non è nessuno. Non è che la metà se lo sta facendo uno che era porco, la metà, poi si lamenta perché non entra la gente, capito? Io non stavo entrando perché c'era un problema di antenna, e l'antenna non ne aveva, adesso ho messo la tua, adesso ho posto la sistemata, tutto va bene, piazziamo quella mia proprio la sera che abbiamo sistemato. Allora posso entrare qualche ora in più, capito? Tutto qua, poi io me ne vado sui 40 e così via, capito? Tanto qui non c'è nulla, passare 10 minuti, non basta. Appunto, se ne va lì all'ascolto va qualcosa di meglio, rimane una cosa andata a posto, cazzo guerremo a posto. Ma non è nessuno, non c'è nessuno. Ecco, tu sei proprio nel consorzio facendo il servizio. Il consorzio, vi fa la cebusia, vi fa la busia, non c'è quel cappannone. È proprio il consorzio, allora, tu sei dentro, perché io entravo dentro e facevo il giro del cappannone a fare la plastica. Poi c'è il direttore, quelle cose, poi c'è uno scemo che è insieme al direttore, conosciuto là. No, qua è, allora, qui dove sono io, è un terreno di 50 ettari, era tutta aperta, adesso hanno messo il cancello, un cancello. Tu quando passi sulla via del consorzio, sulla sinistra, vedi il cancello, c'è la guardia lì, lì siamo noi. Ho capito, la zona già la conosco perché facevo la plastica, poi noi prima di bruciare mettevamo il materiale dove ha preso fuoco, diciamo, dai. Dove ha preso fuoco portavamo la plastica, il cartone, il vetro e così via. E poi io facevo la plastica proprio dentro il consorzio, dentro, facevo il giro del capannone, c'è quello che giusto, le barche, motori, ci mi pare che un fabbro, un carrozziere da altra parte e così via, capito? Già è lì comunque. Vado Marì che mi preparo, casa di 9 mesi si deve uscire, mangio qualcosa. E niente, finita alle 7 di mattina e domani. E dai, ce la riascoltiamo Marì, in caso sei in giro, ho fatto un giro in quelle zone lì, se sono di mattina. Ok, non sei in casa con Marì, solo che mi scappo da casa, già. Sei in casa ti faccio una bassa, se sei a casa, dai, mi apprezzo un caffè. Ok, ciao Manuele, mi fa piacere sentirti, dai, ci sentiamo, ciao. Ciao Marì, stai bene, dai, buona serata.